che guarda sul ciglio della strada, svegliata dai pescatori, stanchi di cucire reti, nylon in tracci, filo di Scozia, fila la lana, filai due giorni, illuditi ancora che lui ritorni, libro di dolci sogni d'amore, apri le pagine al suo. Sì che conosci la vita. Sul ciglio della strada, svegliata dai pescatori, stanchi di cucire reti, nylon in trecci, filo di Scozia, fila la lana, filai due giorni, illuditi ancora che lui ritorni, libro di dolci sogni d'amore, chiudi le pagine sul suo. Così da permettermi uno shampoo a settimana.